Il punto di Stefano Folli. Sarà anche vero, come dice Bersani, che la campagna elettorale è un cabaret. Tuttavia, anche chi non prende parte allo spettacolo folcloristico ha il dovere di essere più preciso nelle sue proposte e nel suo modo di stare sulla scena. Altrimenti non si spiega come mai la Banca Centrale Europea ieri ha sentito la necessità di denunciare l'incertezza in Italia, incertezza che allontana gli investimenti stranieri. Evidentemente non è solo la fisiologica fase preelettorale di tutti i paesi, è la fragilità di fondo del nostro sistema che preoccupa l'Europa. Ed è su questo punto che i partiti dovrebbero dare chiarimenti, tutti i partiti, quelli che affollano il cabaret in primo luogo, è ovvio, ma anche quelli che, sia pure con serietà e magari un filo di sussiego, avanzano ricette ancora troppo generiche per il domani.